Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. This was the charter, the charter of the land, and Guardia angels and his train. Roll Britannia, Britannia roll the way, Britain never, never, never, never whistles. Come sei contento, Oscar? Beh, ragazzi, sei canterino. Tutti i conti oggi dell'elite vanno per aria, come sei si vede. Canterino. Come tutti mai sei canterino? Quelli che dicono è meglio non votare perché succedono i pasticci. La gente capisce e li fa succedere davvero. Rule Britannia è l'inno dell'imperialismo britannico. Britannia è l'inno di una fiera difesa della propria identità, che poi si afferma nel mondo anche con l'imperialismo, ma che nasce per difendersi dagli altri. Capito? Capito, capito. E soprattutto, ripeto, quello che torna in questa canzone è... Adesso ci arriviamo. Quando dici Britannia rule the waves, noi ci fermiamo all'imperialismo, ma il verso che segue dopo è che i britannici never, never, never shall be slaves. Non saranno mai schiavi. Dimenticarsi che i british sono così è un po' un problema. Tra l'altro, bella notizia, ormai la sapete, magari vi siete svegliati adesso e ci sta. E ci magari sta erano andati a dormire con gli annunci di tutti che aveva vinto il Remain. Tutti i giornali, e invece ha vinto la Brexit. Dirò che è ufficiale. Il grande problema mio stanotte, che dovevo scrivere diverse versioni delle ribattute del Messaggero, era spiegare che stavamo un po' sbagliando, perché io fin dall'inizio non ci credevo a questo, al sondaggio YouGov. Tra l'altro, Jim Messina, il consigliere di Renzi, aveva subito battuto un durissimo Twitter contro YouGov, che aveva fatto il sondaggio per cui tutti per ore sono andati avanti dicendo ha vinto Remain in, e singolarmente Jim Messina, proprio un durissimo Twitter in cui gli accusava come al solito di sbagliare metodologia, di non cambiare mai, aveva ragione Jim Messina. Aveva ragione. E infatti è stata rinviata la direzione del PD. Questa è la grande reazione dopo la Brexit. No, ovviamente non è la reazione più importante. No, però... diciamo ai nostri ascoltatori che queste sono ore, da più o meno dalle 5 di questa mattina è in corso dal punto di vista delle reti di tenuta del mondo, cioè reti di tenuta banca centrale, reti di tenuta delle autorità delle finanziarie, grandi banchieri centrali tra loro, anche se non si dice mai così, sono a telefono, Stati Uniti nei confronti di Londra, Bank of England, e soprattutto la sgangherata Europa, perché ha in corso riunioni già dalle 5:30 ora italiana al Palazzo della Commissione. Si tratta di vedere come affrontare questa che, da tutti i punti di vista, anche se molti ci arrivano impreparati, purtroppo è una data che resta nella storia. Pensa, oggi è l'anniversario dell'incoronazione di Enrico VIII. E come si vede, anche in quel caso cambiò la storia, perché ci fu un sovrano che disse no, guardi, io mi sposo chi voglio. Ma infatti, tra l'altro, poco fa la Bank of England ha affermato di aver assunto estensivi piani di emergenza e afferma di lavorare a stretto contatto con il Ministero del Tesoro, le autorità del Regno Unito e le banche centrali estere. Esatto. Quindi, capisci, i banchieri sono... Le borse crollano, la sterlina è ai minimi dall'85%, la borsa di Londra perde l'8%, Francoforte perde... I futures dei mercati di questi giorni, esatto, di oggi, giornata, sono insomma tutti improntati a Tokyo ha già chiuso, assoluto, con l'8% di perdita. Questa mattina, visto che abbiamo iniziato alle 6:15, senti quando ho detto a Mauro Corona, Mauro Corona, sapete, è lo scrittore, no, che si presenta con la bandana sbracciato su dai monti di Erto. Senti qua, Corona. Londra, la borsa di Londra è vicino al collasso. Se collassi torneremo a zappare la terra. Ecco, io penso, capito, che la gente, quelli che non hanno lavoro, che non arrivano a fine mese, non gliene frega un cazzo che l'Inghilterra sia uscita o no. Vabbè, questa è l'immagine molto brutale, ma non è così, immagine... ma è la reazione di molti. Non è la reazione di molti, è la spiegazione in realtà del voto britannico, che è un voto che ha spaccato praticamente il paese geograficamente, che ha spaccato gli elettorati. Hanno votato contro non solo gran parte dell'elettorato conservatore, ma anche una bella fetta dell'elettorato laburista. E infatti il leader laburista ci ha pensato due volte prima di fare campagna davvero. È andato a biascicare qualcosa sull'Europa, Jeremy Corbyn, solo negli ultimi giorni, che ha spaccato chi ha redditi più alti rispetto a chi ha redditi più bassi. Chi ha redditi più bassi ha votato per Leave, che ha spaccato perché chi ha i titoli di studio più elevati ha votato per il Remain, e invece chi ha un diploma o meno di un diploma ha votato per andarsene. Quindi questi, e attenzione cari ascoltatori, meglio che entriamo nell'orbita di idee, che questi geni non si fanno rientrare nella lampada, perché è così. Cioè, siccome c'è un vastissimo calendario di elezioni in Europa, si vota domenica in Spagna, e vediamo se non vince Podemos, che ha idee del tutto analoghe, per così dire, sull'austerità e il cambio di segno della politica europea. Poi ricordatevi che si vota in Francia, si vota in Olanda, si vota in Germania entro metà dell'anno prossimo, entro l'autunno dell'anno prossimo, e vediamo se anche lì il segno non è questo. Io temo proprio di sì, però le classi dirigenti non lo vogliono capire nei diversi paesi. Allora vi convochiamo cari ascoltatori, 800 24 00 24, cosa succede? Guarda che questo è Nigel Farage che sta parlando alla BBC, andiamo sulla BBC. Sono però in realtà sono immagini d'archivio, non è Farage in diretta, però Farage che aveva iniziato la nottata consentendo la vittoria dell'altra parte, dicendo me lo dicono i miei amici finanzieri, anche lui è caduto trappola del fatto che amici finanziari, e lui viene di là. Farage ricorda UKIP e dice dobbiamo cioè, adesso avere un governo che per chiaramente la Brexit, tratti per la Brexit con durezza per l'uscita. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che adesso scatta l'articolo 50 del trattato, quindi c'è una trattativa che può andare avanti per due anni protraibili, sono tempi preistorici del tutto incompatibili con la volatilità dei mercati, che hanno bisogno di tempi rapidi. Comunque a quel punto c'è bisogno, una volta inoltrata formalmente la richiesta, che le guideline, i principi guida di questa trattativa per l'uscita, non quella dei nuovi rapporti, quella è una trattativa da fare poi, ma per l'uscita devono essere approvati da tutti i 27 paesi membri all'unanimità insieme alla Gran Bretagna. Poi alla fine della trattativa ci vuole un voto a maggioranza, cioè di paesi che rappresentano almeno il 65% della popolazione, il 65% della popolazione europea nel Consiglio europeo, e a quel punto anche il voto del Parlamento europeo. Ripeto, sono tutte procedure di una farraginosità incredibile. Esatto, molto farraginose e lunghe. Non solo i mercati finanziari, forse anche la gente che è andata a votare pretenderebbe, come dire, abbiamo votato, non è che adesso annacquate tutto il percorso. Comunque, caro Oscar, noi vogliamo salutare Cristina Marconi da Londra, eccoci qua, che ci ha accompagnato in questi giorni. Cristina, buongiorno. Buongiorno, abbastanza lugubre il tono? No, non so, ma il tuo com'è? Non so, è lugubre? Beh, i toni lì ci sono lugubri, ma non solo, cioè, la maggioranza ha detto di no. Ma sì, è vero, la maggioranza ha detto di no, quindi sono più di un milione di voti di stacco e niente, si accetta, però che sorpresa. E che sorpresa. Ma che sorpresa, perché Cristina, diamo troppo retta ai sondaggi che sono commissionati ed elaborati dalle elite, questo è il punto. Questo è assolutamente vero, c'è stato il question time dopo la morte della Cox di domenica sera, in cui Cameron è stato fatto nero da un pubblico inferocito, che devo dire, insomma, lasciava un pochino presagire. Pensare, no, quello che stava accadendo. Sì. Perché poi è un voto che non è che solo rispetto al partito conservatore, Cameron è spazzato via, non può più fare il premier, questa è la mia opinione, ma è un voto che spacca anche il partito laburista. Il partito laburista è interessante, perché stamattina chiaramente, siccome poi tutto è politica interna, stamattina c'era Diana Abbott molto vicina a Corbyn, che diceva beh, chiaramente un voto antiprotesta, e adesso anti Westminster, e adesso parlava la BBC di un documento interno del Labour in cui loro vorrebbero praticamente spinnare l'idea che Corbyn, essendo stato un moderato del fronte pro-europeo, in realtà è l'uomo giusto per unire il paese in questo momento. Sì, c'è da dire che Cameron, tra l'altro, questa landa. Diciamo due cose: che Cameron parlerà dopo le 8 ora inglese, quindi dopo le 9 in Italia, e lo sentiremo in diretta. Poi parlerà il governatore della Bank of England, ovviamente. e quindi vedremo. Si parla di dimissioni, però già c'è chi dice no, non è vero, resterà al governo. Questo attendiamo mezz'ora e Cameron dirà. Vogliamo salutare ieri sera alla quando iniziamo la conta dei voti, c'è stato questo documento di oltre 80 parlamentari conservatori che dicevano comunque deve restare. La vera notizia è che erano più di 40 quelli che non avevano comunque firmato, quindi... Vogliamo salutare anche Udo Gumpel, corrispondente all'Italia per la rete televisiva tedesca NTV del gruppo Bertelsmann. Buongiorno Gumpel, benvenuto. Sì, buongiorno, gruppo Bertelsmann, non c'è, sì. Il gruppo RTL di proprietà, sì, della fondazione Bertelsmann, ma comunque questi sono dettagli. Allora, Udo Gumpel, il vice cancelliere tedesco però, se non sbaglio, ha fatto un tweet dicendo peste corra, insomma dicendo una giornata drammatica, dicendo che cosa? Da Berlino le prime reazioni quali sono? Le prime reazioni sono di delusione, ma sono anche di una certa durezza, perché se adesso quelli che sono usciti, Michael Farage come portavoce in pratica del gruppo degli ultranazionalisti britannici, se loro credono di poter mantenersi i vantaggi dell'appartenenza al mercato comune senza pagare il dazio, e loro hanno raccontato agli inglesi una grande bugia, perché per esempio, voglio solo dare l'esempio, lui, Farage e gli altri hanno sempre raccontato del modello Norvegia, no? Facciamo come la Norvegia. La Norvegia effettivamente ha un accordo particolare che però significa che paga addirittura tutti i fondi strutturali, subisce tutte le regole della comunità europea senza poter discuterne, senza mandare parlamentari, senza avere alcuna voce in capitolo. Dunque, se l'Inghilterra vuol fare un accordo con la Norvegia, la comunità europea accetta, che significa che l'Inghilterra non risparmia neanche un pound dei suoi fondi che finalmente che versa nelle casse europee. Dunque il pubblico è stato ingannato, così come anche in Italia leghisti o anche molti del Movimento 5 Stelle ingannano, sì, il pubblico, perché loro promettono degli avremo accordi Salvini, che non ci saranno. Avremo Salvini alle 9.05, intanto possiamo, al telefono ovviamente, no, visto che ci sono leghisti. Sono persone che ingannano il pubblico, perché loro hanno creato il mostro Farage e gli anti-europeisti, descrivendo la comunità europea come una specie di mega burocrazia, e questo ha partecipato naturalmente anche allegramente Renzi, perché non sapendo più a quale santo appellarsi, e si è voltato alla fine anche all'anti-europeismo, che è la cosa più facile, non raccontando che tutte le decisioni vengono ratificate da un Parlamento. Gumpel, che dovremmo fare? Non deve votare la gente come voleva l'ex premier Mario Monti, no, in Italia? In che senso? No, nel senso che, a dire, hanno alimentato, mi pare di capire nell'analisi, il populismo. Loro hanno alimentato l'anti-europeismo raccontando bugie colossali. Ma in Gran Bretagna hanno votato, che però ci sia una burocrazia a prendere decisioni quando sono parlamentari eletti. Hanno detto che sono burocrati, ma mentre sono delegati dei governi nazionali. Hanno da un lato ottenuto molte competenze in paesi nazionali, poi dicono ma l'Europa non decide, ma sono gli stessi presidenti dei governi, dei stessi governi che mandano i loro delegati eletti democraticamente. Allora, o facciamo qualsiasi decisione referendum popolare, stile, sì, Grillo, oppure stile Nigel Farage, oppure facciamo anche una democrazia rappresentativa. Allora, siamo una democrazia rappresentativa, allora uno accetta le regole. Accetta le regole europee sono state firmate da governi eletto democraticamente. Ma non ho capito una cosa, cioè in Gran Bretagna quindi quelli che hanno votato, cioè la maggioranza, sono stati eteroconvinti dal populismo. Non usiamo strane parole, sono stati ingannati con bugie colossali. Bugie colossali. Chi ha seguito la campagna inglese può solo dire che è stata una gran presa per i fondelli degli inglesi, che pagheranno delle conseguenze enormi. Non solo, magari a lei, a me un po' fa piacere che la sterlina costi di meno, mi posso permettere un viaggio in Inghilterra al 10% in meno, perché questo l'avete già raccontato, no? Sì. L'inganno è ai danni degli inglesi, perché poi parlano della migrazione pensando naturalmente agli africani che arrivano sulle coste italiane, quando in realtà gli inglesi si barricano contro la migrazione intraeuropea, soprattutto per esempio italiana. Immigrati non ne hanno visti già molto. Chi favorisce Questo populismo si mette la zappa sui piedi, ma forse in Europa siamo dove bisogna permettere a questi politici di mettersi la zappa sui piedi. Oscar, tra 10, 20, 30 anni vedremo la situazione, avremo qua, no? Questa è la situazione. No, ma è chiaro, Oscar, Udo Gumpel ci dice che insomma gli inglesi sono stati ingannati, è una grande campagna di inganno e hanno quindi votato in base a questo. Io penso che se il nostro mestiere di giornalisti è fare quello che quelli che nelle campagne elettorali dicono si usano argomenti infondati. Detto questo, oramai questa è l'area che tira in tutta Europa, anzi, se vogliamo Trump agli Stati Uniti, è l'area che tira anche negli Stati Uniti, perché è la reazione di come i politici, per non perdere consenso, vanno dietro alla gente che ha perso, vittime della crisi, chiamiamole così, che è arrabbiata con l'elite e così via. Allora, delle due l'una: o c'è una politica capace di interpretare al meglio questa roba, o altrimenti fare la parte di chi, come dice, da noi sono stati Monti, sono stati altri Prodi, a dire meglio non votare, come in Gran Bretagna. Credo che si venga travolti. Adesso, o c'è la reazione giusta da oggi e domani, nelle primissime ore, o se prevale, per così dire, la spirale della vendetta, diciamo, della vendetta, dell'arroccamento, sfugge di mano a tutti. Questa, perché a quel punto, sai, perdersi nel loop di dire è colpa tua che hai mentito, no, è colpa tua, sono i tedeschi, temo che sia peggio. Quindi io spero che le classi dirigenti capiscano che ci vuole una grande responsabilità. Intanto, caro Oscar, la commissione elettorale britannica, non ce n'era bisogno ormai, ma ha confermato, e quindi ora è ufficiale al 100% certificato, che il referendum ha visto la vittoria della Brexit, quindi è proprio ormai anche col bollo del regno. Allora, dobbiamo andare un attimo in pubblicità, ci raggiungerà anche Ferruccio De Bortoli, avremo ospite Matteo Salvini perché andiamo avanti fino alle 9.30, dopo il giornale radio delle 9. Cameron parlerà alle 9.15, dice la BBC, alle 9.15. Vediamo se ci dice che resta un po' o no. State con noi. State ascoltando un programma offerto da Aruba, soluzioni cloud per le imprese. Solo su www.cloud.it. And guardian angels sang this strain. Rule Britannia, Britannia rule the waves. È canterino. Britons never, never, never shall be slaves. Sai che mi ha scritto prima che è stato composto in un pub, sì, che non so bene, e quindi da un ascoltatore ha detto fu composto in un pub, sbronzi, erano sbronzi, sempre sbronzi. No, non so, Cristina Marconi, e intanto cosa annuncerà Cameron? Possiamo fare questa previsione mezz'ora prima, secondo te, le dimissioni, non le dimissioni? Cerchiamo una previsione un po' più fondata di quelle elettorali con cui ci hanno obbligato a commentare per due ore. Sì, non lo so, veramente credo che forse la continuità in questo momento non sarebbe una cattiva idea, tutto sommato. E comunque, non so, forse la lettera di ieri sera alla fine è proprio questo, diceva, cioè aspettiamo un attimo e poi ti facciamo il pelo e il contropelo. Ricordiamo che l'ha indetto lui il referendum, l'ha indetto lui proprio per affermare la sua leadership, tra l'altro. È certo. Lui sì, infatti si è regalato tre anni di sopravvivenza in più, ma perché insomma lo scenario tre anni fa era esattamente lo stesso, con Farage che lo incazzava, gli euroscettici che ballavano e volevano spaccare il partito, e lui ha indetto questo referendum per cercare di guadagnare tempo. Però sì. Oggi però manca mezz'ora e la verità sarà svelata. Io temo che politicamente abbia più senso però che vada a casa, perché ha perso brutalmente, questo è il punto. Ma a questo punto che cosa succede? Arriva Johnson subito? No, arriva Theresa May magari. Arriva magari Theresa May, che è stata molto accorta, non si è esporta molto, come sai, Cristina, e che secondo me lo ha fatto apposta, cioè come misura, come possibile leader di una mediazione, ma di un governo in cui a quel punto Osborne, cancello scacchiere, questo possiamo dirlo con ragionevole certezza, va a casa. E insomma, chi acquista più potere sono Mike Gove e altri. Comunque, poco fa Nigel Farage, leader UKIP, che ha detto, Oscar, proclamiamo questa come festa nazionale, Independence Day, ma ha detto anche una cosa ben più seria, ha detto dopo questo, dopo la Brexit, l'Unione Europea sta morendo e altri paesi potrebbero seguire questo esempio. Ma l'appello è esplicito, l'appello è agli olandesi, agli italiani e ai francesi. Che lo hanno accolto. Vogliamo girare questa considerazione a Ferruccio De Bortoli, ben ritrovato De Bortoli, direttore, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. È così, cioè forse ci buttiamo troppo in là, ma sta morendo l'Unione Europea. Questo domino politico è ancora più preoccupante di quello che sta avvenendo sui mercati dal lato economico e finanziario, questo non c'è dubbio, insomma. Quindi c'è questo rischio così, alla fine, meglio così, dice. Anche se fossero rimasti con il paese diviso in due, in una condizione che poteva anche bloccare le future evoluzioni dell'Unione Europea, erano fuori dall'euro, fuori da Schengen, a molte delle politiche comuni non appartenevano ovviamente a loro, forse questo è un elemento di chiarezza, però qui bisognerà vedere quale sarà la reazione del resto dell'Europa, perché hanno votato soltanto i cittadini inglesi, britannici, per loro, a questo punto l'Europa deve reagire, fare qualcosa anche di solenne, ribadire anche che in 70 anni saranno stati commessi molti errori, ma molte conquiste e molti successi sono stati ottenuti, insomma. Allora ci deve essere qualcosa che può apparire un po' come ventotene, qualcosa che dia anche simbolicamente l'idea che l'Europa non si fa prendere in giro da Farage e che i cittadini inglesi hanno votato per loro, giustamente, per carità, è una scelta democratica, ma non hanno votato per noi. Ovviamente questo pericolo di fondo è che l'Europa non riesca a convincere la maggioranza dei propri cittadini. Ecco, perché la domanda che faccio a De Bortoli, un conto è avere questo auspicio come reazione in linea per tentare di difendere, non solo di difendere il difendibile dell'Europa, ma anche di fargli fare qualche passo avanti nei tanti problemi aperti a cui non ha dato soluzione, basta vedere dall'immigrazione in poi, cioè oggi è uno stallo terribile. Però al di là dell'auspicio, l'osservazione che dobbiamo fare come osservatori, De Bortoli, è che noi ce li vediamo attualmente di fronte alle pressioni dell'elettorato che c'è in Francia, di fronte alla sfida che Alternative for Deutschland lancia ai due partiti della grande coalizione tedesca, di fronte al voto dell'Italia nelle amministrative che c'è stata domenica scorsa. Ecco, ci sono i leader di questi tre paesi, forse quello tedesco di più, ma quello francese e quello italiano, se la sentono di fare una cosa di questo genere, che è una sfida innanzitutto agli elettorati in ebollizione sotto i loro piedi, secondo lei? No, però secondo me se sono degli statisti si prendono i loro rischi, se vogliono invece accarezzare il pelo dell'elettorato, beh, insomma, si comporteranno come molti altri. Certo, il rischio c'è che nel 2017 vinca la Le Pen e faccia un referendum di questo tipo, c'è l'effetto domino sui danesi, sugli stessi svedesi. Pensate a quello che può accadere nell'Europa dell'Est. Il referendum sull'Europa è la scorciatoia più semplice per un governo in difficoltà che sta perdendo potere. Sì. Anche in Olanda Wilders ha detto fosse il governo subito. Colpa dell'Europa, io faccio un bel referendum e me la cavo. Oddio, Cameron paga per i suoi errori. Non funziona paga proprio. Paga per i suoi errori, ovviamente. Paga anche Corbyn, perché nella campagna inglese così folle, irrazionale, abbiamo avuto i due difensori del Remain, Cameron e Corbyn, che non erano per niente convinti, l'hanno dato anche a dimostrare, insomma, cioè erano dei sostenitori per intenzionali, quindi voglio dire sono stati i peggiori sostenitori delle ragioni dell'Europa. Qualcuno tra l'altro De Bortoli, però non bisogna neanche renderci al populismo imperante, bisogna che un po' la razionalità prevalga. Certo. Ecco, però è una scelta di quelle pesanti nella carriera dei politici e dei paesi, perché significa, come ha detto giustamente De Bortoli, non accarezzare il pelo nel verso. Esatto. Qualcuno ha fatto notare che per esempio in Scozia, dove c'è una forte spinta autonomista, in Irlanda del Nord, dove c'è stata una guerra civile con migliaia di morti, con Londra, lì ha vinto il Remain, no? Lì vogliono rimanere nell'Unione Europea, no? E Londra invece no. Certo, il voto scozzese è assolutamente significativo, insomma. Lì si riproporrà ovviamente anche il tema dell'indipendenza scozzese, insomma, cioè, si è aperta una porta verso l'ignoto, porta aperta in maniera così improvvisa, se vogliamo, della storia, di cui non sappiamo assolutamente nulla. I mercati oggi lo registrano in maniera assolutamente drammatica. Io devo dire che temo un esito, un altro Brexit, se posso dire, c'è un altro. c'è un Brexit che è quello della rivolta contro l'establishment, contro il cosiddetto mainstream, cioè gli inglesi hanno votato anche contro Londra, cioè contro anche coloro che sentono sempre più distanti, che sentono sempre, e probabilmente sono quelli ai quali forse professionalmente sbagliando diamo più ascolto, e forse i sondaggi riflettono più quel tipo di sentimento che è il sentimento dell'economia, della finanza, diciamo, di chi è globalizzato e chi invece si sente fuori dalla globalizzazione, si impoverisce come il ceto medio che è vittima poi, se vogliamo, anche della globalizzazione, trova il referendum come un modo anche per scaricare tutta la propria insoddisfazione, tutta la propria incapacità di capire dove sta andando, ma proprio perché si sente tagliato fuori, penalizzato e anche messo in un angolo della storia. Certo. Quindi da questo punto di vista dobbiamo ragionare, i politici devono anche capire questo sentimento. Chissà, un po' l'abbiamo visto anche nelle ultime amministrative nostre. Sì, intanto c'è una riunione convocata, fanno sapere le agenzie, proprio a Palazzo Chigi, tra Renzi, Visco, Padoan, Gentiloni, Calenda, Minniti, quindi esponenti del governo, ma anche appunto Visco, dunque Banca Italia, per cercare di capire come reagire. Vogliamo sentire, perché ci ha contattato nei giorni scorsi, si dice sempre e gli italiani che vivono in Gran Bretagna, adesso che succede? Allora noi abbiamo contattato Marco che vive a Leek, giusto? Pronto Marco, buongiorno, ci sente? No, è caduta la linea, adesso lo recupera, non ci sente Marco. La Cristina, cosa cambierà per gli italiani, che sono in Gran Bretagna? Ma nell'immediato dicono poco, insomma, comunque questi due anni bisognerà farli passare, per 2-3 anni si dice che più o meno tutto resterà così com'è. Certo è che c'è stato un aumento delle registrazioni all'AIRE nell'ultimo periodo, perché è meglio di avere qualche un pezzo di carta che certifichi che si era qua nel giorno dell'indipendenza, visto che magari sui nuovi arrivi potrebbe esserci. Bisognerà capire che piega prenderà questo evento. Il problema chiaramente ci sono anche, insomma, la questione degli investimenti, che non sono pochi, perché comunque durante il picco della crisi, per esempio, tanti italiani hanno comprato case a Londra, il mercato soprattutto delle case di lusso è straordinariamente, vede gli italiani molto presenti, insomma, cosa succederà di questi investimenti? Questo però bisogna verificarlo. L'abbiamo recuperato intanto Marco, da lì, che ci sente Marco? Sì, vi sento bene. Tra Birmingham e Manchester, nelle West Midlands. Allora, da quanto è in Inghilterra? Cioè la parte che insomma è stata abbastanza bella, pesantina, per far vincere il Lib. È lì a fare che? A lavorare? Sì, io lavoro qui da circa 3 anni in un'azienda che fa produzione, manufacturing. E qui è successo quello che mi aspettavo. Non mi aspettavo magari così tanto in altre parti d'Inghilterra, magari Birmingham città. Però qui è esattamente in linea, qui l'aspettativa per il business è che anche lasciando sostanzialmente non cambierà. Se qui non si capisce perché un'azienda che fa buoni affari come noi, tipo comprando componentistica in Italia, vendendo i prodotti finiti in Germania, perché dovremmo cambiare fornitori o perché i nostri clienti dovrebbero non comprare i nostri prodotti adesso che è cambiato questo. Però questo bisogna vedere, perché ripeto, se l'Unione Europea adotta il cliché che abbiamo visto nelle reazioni franco-tedesche, cioè nelle reazioni dure di questi ultimi giorni, se siete fuori siete fuori, e possono cambiare semplicemente gli standard dei prodotti importati, funziona così, cioè se non ci sono accordi di un mercato fluido e aperto nel mercato dei beni e dei servizi, basta cambiare gli standard e tu puoi avere il miglior prodotto del mondo, ma trovi una barriera di tipo regolatorio. Certo, diventa una guerra in cui ci si fa del male a vicenda, questa è la mia... Esatto, lo so. In un mondo di mercato globale, però... di World Trade Organization, mi sembra anacronistico mettere barriere... Però lei ha sentito Udo Gumpel prima, che faceva una specie di proclamazione di guerra, cioè adesso la pagheranno cara! No, esatto, ci ha molto colpito, perché per tornare Ferruccio De Bortoli, prima Udo Gumpel è stato durissimo a dire hanno votato perché ingannati da classi politiche populiste, cioè sembrava come dire... E adesso però, quindi la pagherete. Io ecco. Credo che questa sia la reazione immediata. Intanto dall'articolo 50 del Trattato di Lisbona ci sono 2 anni di tempo, per cui sostanzialmente non dovrebbe succedere niente per 2 anni. Bisogna capire in quali modalità sarà permesso l'accesso al mercato unico ai prodotti inglesi. Si potrebbe ipotizzare una situazione simile a quella della Norvegia nello spazio economico europeo, o simile per esempio a quella della Svizzera, anche se la Svizzera deve ritrattare un po' tutte le proprie convenzioni con Bruxelles. Insomma, forse all'inizio ci sarà una reazione un po' piccata, politicamente delusa. Ecco, poi mi auguro che non prevalga la follia delle reazioni, anche se bisogna dire la verità, la Svizzera ha oltre 155 accordi bilaterali sui diversi settori di beni e servizi, ci ha messo 30 anni per negoziarli, e come ricorda De Bortoli è sempre in corso una rinegoziazione di almeno una decina di quelli, quindi è una cosa complicata. Poi hanno avuto un referendum anche loro, anche quello sull'immigrazione del 9 febbraio del 2014, e Bruxelles ha detto va bene, volete rinegoziare la libertà di circolazione, vabbè, a questo punto mettiamo in discussione tutti gli altri accordi che sono stati fatti, questo è anche abbastanza naturale. Adesso ci vorrà molta diplomazia, molto sangue freddo, molto realismo, e qui si vedono la capacità dei politici, uno stress test dell'Europa. Il fatto poi che ci sono almeno 2 anni di percorso, questo potrà forse agevolare appunto a recuperare quel raziocinio a cui lei faceva riferimento, De Bortoli. Io ho l'impressione che provo, molti anche a casa nostra, siamo felici. Intanto noi dovendo ringraziare Ferruccio De Bortoli, Cristina Marconi da Londra, anche il nostro ascoltatore Marco Dalic, ma andiamo avanti fino alle 9:30. Avremo Matteo Salvini tra poco, chissà come gongolerà. Vedo già la roia neve che avanza sui fiumi del nostro paese dal mare. Stavo scherzando. Faranno un grande canale europeo, ci invaderanno direttamente dall'Europa. Figurati, io poi devo dire, mi arrendo subito a quel punto, mi arrendo immediatamente agli ok. Dai, stiamo qui fino alle 9:30, quindi chiamateci all'800 24 00 24 dopo il giornale radio. Il segnale orario vi è offerto da Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Dai Oscar, hai perso la verve? No, è che non me lo aspettavo. Non te l'aspettavo. No, a parte che avete attaccato da un punto diverso. Ah, per quello, non è il ritornello. Esatto. È il ritornello. Quello fatto ovviamente composto dagli sbronzi nel pub, no, ricordiamolo. Svolto, no, the charter of the land, and God, angels sing his way. Rule Britannia, Britannia rule the waves. Britons never, never, never will be slaves. Vabbè, non so, vogliamo far cantare anche Matteo Salvini? Tieni conto che quello che tu dici, composto da ubriachi, James Thompson, quando lo sentì per la prima volta Handel, cioè stiamo parlando di uno dei più grandi musicisti, Handel lo mise immediatamente in una sua opera dicendo questa musica è eterna, capisci? Vabbè. Perché dice Britos, never, non saranno mai più schiavi. Oh, non so, lo vogliamo far cantare anche a Matteo Salvini? Non so se Matteo Salvini, buongiorno, secondo me lo canterebbe buongiorno. Mi sbaglio? Non lo canterebbe, no, l'inno. No, sono stonato, lascia perdere. È stonato. Matteo Salvini è andato a dormire un po'. È un bel giorno. Al di là delle borse, ovviamente io come tutti gli altri 2 lire ce le ho, però è un bel giorno, primo per la democrazia, perché gli inglesi hanno votato superando ogni tipo di minaccia, di insulto, di ricatto, se vince il Leave non vendete più il whisky, non mangiamo più il gelato, vi cadono i capelli, c'è lo tsunami, venite eliminati dagli europei, di tutto si è sentito, di tutto. Quindi evidentemente la coscienza dei cittadini è al di là dei ricatti di 3 banchieri e 3 finanzieri. E adesso è interessante capire cosa succede. Perché infatti bisogna vedere se l'Europa ha voglia di cambiare, ha la testa di cambiare, ha il cuore di cambiare, o se continueranno a far finta di niente. L'ultima occasione per l'Europa di liberarsi dall'Unione Europea, perché l'Unione Europea è la negazione dei valori europei. Cioè lei sta dicendo che vorrebbe l'Italia fuori, vorrebbe un referendum come in Gran Bretagna per dire fuori dall'Unione Europea. La Costituzione italiana lo vieta. Appunto. Lo vieta, e la riforma proposta da Renzi continua a vietarlo. A maggior ragione io voterò no al referendum a ottobre, perché in democrazia devono essere i cittadini a dire, ad avere l'ultima parola, soprattutto su scelte importanti che ormai vengono prese per i 3/4 delle decisioni che poi arrivano a Milano, a Roma, a Napoli, a Bergamo, a Torino, vengono prese a Bruxelles. Quindi una Costituzione che in questo è antidemocratica, confermata da Renzi, quindi a maggior ragione voterò no, perché non capisco perché debbano votare tutti i popoli europei, dagli olandesi ai francesi, ai danesi, agli inglesi, agli svedesi, agli ungheresi, in Italia no. In Italia è vietato di esprimersi sui trattati internazionali, quindi se domani uno decidesse di far entrare la Turchia nell'Unione Europea, gli italiani se la ciucciano senza dire né bene, ma non esiste. Lei ha detto in questi ultimi giorni ci sono state delle costellazioni proprio su questo punto. È stato prima Mario Monti a dire che il referendum era un disastro, non solo perché Cameron sarebbe stato un boomerang sulla testa di chi l'aveva convocato per ragioni di leadership interna, ma proprio perché faceva fare 20 anni indietro al processo di integrazione europea. Dopodiché Prodi ha detto più o meno la stessa cosa. Dopodiché sul Corriere della Sera Sergio Romano ha detto la stessa cosa, anzi ha detto che bisogna essere riconoscenti ai costituenti che ci impediscono di votare su spesa, tasse e trattati internazionali sull'Unione Europea. Allora, però com'è che anche nel nuovo testo della Costituzione, secondo lei, quello su cui c'è il referendum a ottobre, forse rimane questo punto? Cioè, cos'è? Paternalismo di Stato? I politici pensano di essere più furbi di detto? Detto il capogruppo del PD alla Camera in televisione, no, gli italiani non devono votare su questioni europee, è meglio che non votino. Perché se votano, poi magari non votano come hanno deciso in borsa, hanno deciso i banchieri. Secondo me sono discorsi allucinanti quelli di Monti, Prodi. Guardate, meglio che i cittadini di certe cose non si occupino, perché poi magari si accorgono che è una fregatura. Ma se ci fosse un referendum sulla moneta unica, oggi, dopo che ci hanno raccontato che sarebbe stato il miracolo, avremmo lavorato di meno, guadagnato di più, i nostri risparmi, i mutui, il lavoro, a me sembra... Una fregatura economica, la più grande truffa economica della storia dell'uomo. Cioè, diciamo questa che quantomeno anche in Italia il risultato sarebbe aperto. Ma forse Salvini, perché il dibattito è quello, è di pensare che non tutta la gente potrebbe avere gli strumenti dal punto di vista culturali. Allora per tra illuminati. No, non decidono tra illuminati. Lei li ha gli strumenti. Secondo lei ha ancora di diritto, ha ancora diritto di parola? Beh, questo è un altro paio di maniche, però. Parola, dai, lo diamo a tutti. Parola, lo diamo a tutti. Il problema è sì, la loro tesi di chi difende il fatto che non si vota dal basso come in Svizzera, io la penso come lei su questo, però la loro tesi è sono temi troppo complessi, tanto più la globalizzazione, i mercati eccetera eccetera, è meglio gestirseli nel salotto con due massoni, due banchieri, ma il problema è che la loro obiezione, io infatti gli dico sempre, ma allora diciamolo chiaro che il suffragio universale non, è un lusso che non ci possiamo permettere, per così dire. Però il problema è che non lo dicono e però ecco quello che succede, tra l'altro reazioni più onesto Oscar, se lo dice, ma, infatti, guardate, anch'io penso, noi abbiamo ditelo. Il nostro film che va da qui al 2050, che prevede la cancellazione di tutte le piccole e medie imprese, delle piccole aziende agricole, dell'artigianato, perché vogliamo cose grandi, grandi banche, grandi aziende agricole, grandi multinazionali, non rompete le scatole perché il nostro progetto di Europa è questo. Secondo me è la negazione dei valori europei, però Salvini, di solidarietà, di lavoro. In attesa che tra qualche minuto appaia Cameron, già vediamo tutti i microfoni, perché sono tra poco Cameron, 10, dammi, le chiedo questo, già Wilders in Olanda ha detto ora via l'Olanda, la Le Pen in Francia ha detto anche lei in qualche modo, anche se non si può in Italia per la Costituzione, però lo vorrebbe, lo auspicherebbe. Ecco, una delle cose che si temeva era l'effetto domino, l'effetto domino anche di cosiddetti populismi europei. Lei invece... Guardi, i veri populismi sono quelli che stanno costruendo questa Europa senza valori, senza patria, senza anima, senza un collante. Qual è il collante dell'Europa? L'Erasmus, bene, per carità di Dio, l'Erasmus c'era prima e ci sarà anche dopo. I miei figli hanno 13 anni, cresceranno in Europa, ma io ripeto, come diceva Bukowski, uno dei più grandi dissidenti sovietici, questa Unione Europea è la negazione dei valori europei, è la versione moderna dell'Unione Sovietica, dove decidono pochi sulla testa di molti. E io ricordo, stando anche al vil denaro, che l'Italia è contribuente netto, quindi chi sta ascoltando Radio 24, che è una radio che giustamente parla di quattrini, di danè, di sgay, di economia, noi ogni anno diamo 6 miliardi in più rispetto a quello che torna indietro a spanne. È come se io pagassi la tessera a un club che mi costa 6 miliardi, quindi non due noccioline, e invece di darmi dei servizi il club mi mette due dita negli occhi con la direttiva sulle banche, con la direttiva Bolkestein, con le norme assurde. No, però se mi difendi anche tu, come fa Banca Italia, il diritto di Banca Italia di difendere i banchieri amici, non ti riconosco, però, perché quelle sono le obiezioni dei banchieri. Fatto sta, ma non è tutta colpa dell'Europa, l'Italia ha i suoi mega problemi, che mafia, Camorra e 'Ndrangheta non ce li hanno portati. No, ma anche testimoniano oggi i giornali. Anche i ladroni alle banche verte non ce li ha portati. Attenzione però, perché sta arrivando Cameron. Salvini che fa? Vuole ascoltare con noi in diretta? Onore. Beh, quantomeno ha avuto la dignità e il coraggio di far votare i suoi cittadini, cosa che Renzi immagino mai nella vita farebbe. Sentiamolo. From England, the biggest in our history. Over 33 million people from England, Scotland, Wales, Northern Ireland and Gibraltar have all had their say. Sta dicendo che hanno votato. Oltre 33 milioni. Dobbiamo essere orgogliosi di questa, del fatto che si sia votato. Parliamentary democracy, but on questions about the arrangements for how we're governed. There are times when it is right to ask the people themselves. È giusto, ci sono tempi in cui è giusto chiedere alla gente. The people have voted to leave the European Union and their will must be respected. Rispetteremo il volere della gente. Campaign on my side of the argument, including all those who put aside party differences to speak in what they believed was the national interest. Noi stiamo aspettando di capire chi annuncia adesso. Si congratula con tutti coloro che hanno preso parte alla campagna del Leave. Li congratula, molto sportivo. The will of the British people is an instruction that must be delivered. It was not a decision that was taken lightly. La decisione non è stata presa con leggerezza. By so many different organizations about the significance of this decision. So there can be no doubt about the result. Non ci sono dubbi sui risultati. People have been watching the choice that Britain has made. Tutto il mondo guarda alla scelta britannica. That Britain's economy is fundamentally strong. And I would also reassure Brits living in European countries and European citizens living here that there will be no immediate changes in the assicurando anche i cittadini europei che vivono nel Regno Unito non saranno immediate conseguenze. Esatto. Le persone potranno continuare a viaggiare. Le merci anche. We must now prepare for ora ci dobbiamo preparare alla negoziazione con l'Unione Europea. Vabbè, questo ovviamente Scottish, Welsh and Northern Ireland governments. To ensure that the interests of tutti aspettiamo all di capire se annuncia ma mi dimetto oppure rimango, caro Oscar. But above all, this will require strong, determined and committed leadership. Ci stiamo. I'm very proud and very honored to have been Prime Minister of this country. Sono orgoglioso di essere il primo ministro. I believe we've made great steps. Abbiamo fatto grandi passi in avanti nel lavoro. With reforms to welfare and education, come sempre i politici girano intorno, building a bigger and stronger society, keeping our promises to the poorest. Abbiamo mantenuto le promesse per i più poveri, and enabling those who love each other to get married, whatever their sexuality. Ma che fa? But above all, restoring Britain's economic strength. Ma che fa? And I'm grateful to everyone who's helped to make that happen. Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato a farlo. I also always believe that we have to confront big decisions. Not duck them. Dobbiamo affrontare grandi decisioni to bring our economy back from the brink. It's why we delivered a fair, legal and decisive referendum in Scotland. And it's why I made the pledge to renegotiate Britain's position in the European Union and to hold a referendum on our membership and have carried those things out. I fought this campaign in the only way I know how. Ho affrontato questa campagna nell'unico modo che conosco, con passione, diretto, o però non lo dice Oscar. No, anzi, ha usato il passaggio prima. La Gran Bretagna è più forte e più sicura di prima. And I made clear the referendum was about this and this alone, che ci vuole una leadership molto forte. Not the future of any single politician, including myself. But the British people have made a very clear decision. La gente ha preso una decisione diversa dalla mia. Ha parlato di leadership fresca. But I do not think it would be right for me to try to be the captain penso che non sia giusto rimanere il capitano, quindi sta dicendo che forse si metterà. Non ho preso questa decisione con leggerezza, ma per l'interesse nazionale ci vuole stabilità e nuova leadership. Ci vuole un nuovo premier, questo a ottobre forse. Quindi Cameron sta dicendo che ci vuole una leadership fresca, nuova, diversa. Insomma, c'è sta un dicendo che... nel partito e quindi c'è bisogno di una trattativa per vedere chi. The governor of the Bank of England is making a statement about the steps. Siamo alla reazione su Bank of England. Salvini, non so se è ancora con noi, ma si deve dimettere secondo lei, Cameron? Ha detto ci vuole una leadership fresca, nuova, rinnovata per affrontare questa cosa. Beh, è un discorso assolutamente dignitoso. Dignitoso e onesto, sì, mi sembra chiaro ed evidente. Ha scommesso tutto sul Remain. Era anche stato bravo a trattare, peraltro, con l'Unione Europea, esatto, parecchi vantaggi. Febbraio, per, come no, vantaggi aggiuntivi. Per la Gran Bretagna, però quando perdi, soprattutto su una scelta così importante dove ti sei giocato la faccia, lo capisco. Lo capisco. Insomma, lo ha detto, capisco abbiamo bisogno di un nuovo primo ministro da ottobre. No, no, questo è evidente che non ha detto mi dimetto oggi. Non ha detto, ha detto oggi per non aggiungere elementi di instabilità. Instabilità. Nel frattempo, dimettersi oggi, ripeto, esatto, avrebbe aggiunto senso, problemi però, a problemi. L'indirizzo è chiaro: è quello di dire ci vuole una leadership nuova e diversa, perché lui si prende la responsabilità di dire mi sono battuto per il Remain e ho perso da questo punto di vista. Perché poi la politica altrove non è fatta delle giravolte italiane. Nel frattempo, Francoforte apre con un tonfo meno 9,9. Madrid meno 7, Parigi meno 7 e 8, Fuzimib resta negativo ma non si riesce ancora bene a capire, questo lo vedremo. Nel frattempo Schulz, il presidente del Parlamento Europeo, auspica un'uscita rapidissima, cioè in Schulz si sente l'accento tedesco della volontà di vendetta, per così dire, devono levarsi dai piedi presto, non l'ha detto così ma è molto chiaro. Tusk, il presidente del Consiglio Europeo, ha fatto capire che si sta procedendo a un summit speciale straordinario che comunque è già in corso telefonicamente tra i europei. Va bene, Salvini, nel salutarla e concludere, non è uno di quelli che anche esulta per il crollo delle borse, no? Dice vabbè, no. Cioè, dovrei esultare se si bruciano quattrini. Che sia salutare perché questa Unione Europea è un piccolo cieco, quindi o si riprendono i trattati dal primo all'ultimo, alcuni dei quali hanno 30 anni e sono superati, si rileggono, si riscrivono con più senso, oppure se l'Unione Europea è l'interesse di tre banchieri, tre finanzieri, non capisco dove sia il vantaggio per i cittadini, per i giovani, per i lavoratori, al di là dello spirito. Quindi spero che questa proposta serva a rimettere sui binari un'unione che in questo momento fa l'interesse di pochi, sulla pelle di molti. Salvini, le chiedo una reazione al volo a una dichiarazione che Giorgio Napolitano ha fatto su Radio 1, su Radio Anch'io, su Radio Rai. Dice: ora occorre il massimo autocontrollo dalle persone che hanno responsabilità in politica. Faccio un appello perché le persone di responsabilità ripensino i propri atteggiamenti invece di soffiare sul fuoco. Ce l'ha con lei, secondo lei? Non capisco, quando i cittadini votano, ha ragione Oscar quando diceva, allora ce lo dicano, la democrazia non è prevista, autocontrollo cosa vuol dire? Che io adesso finisco la telefonata con Radio 24 e mi dico costernato, affranto, dispiaciuto perché crolla un grande sogno, un grande ideale, no, questa Unione Europea è una gabbia di matti. È la morte del nostro lavoro, della dignità, quindi più sberloni arrivano a questa Unione Europea controllata da pochi sulla testa di molti, meglio è. E capisco che sia il giocattolino dei Napolitano, dei Monti, dei Prodi, però i giocattolini venuti male fanno i conti con la storia, fanno i conti con i popoli che poi... Ma le diranno che lei dice così per far dimenticare il redazione del dopovoto. Io mi limito a fare il giornalista, non ho detto quello le famose elezioni che abbiamo perso passando da 60 a 99 sindaci. Esatto, vabbè, vedete come per il referendum britannico, dove le hanno provate tutte, ripeto, mi mancava di leggere che se gli inglesi avessero votato sì avrebbero perso tutti i capelli. Poi ho letto le peggio sciagure, anche la Lega ha perso le elezioni, sì, avevano 60 sindaci, ne abbiamo 99, potevo prenderne di più, certo, ho perso Milano, certo, e mi rode, Però ragazzi, 99 è più grande di 60. In ogni caso, Salvini, noi la ringraziamo e staremo a vedere che succede nei prossimi giorni. Ricordiamo, grazie a Matteo Salvini, ovviamente leader della Lega, ricordiamo che Cameron ha annunciato a ottobre, di fatto ottobre, non sarà più lui premier, mi dimetto da ottobre. Ho preso il tempo per una nuova leadership del partito, per vedere anche cosa succede con l'Europa, per fare questo negoziato. Ci ha contattato anche un ascoltatore, ci ascolta da Hong Kong. Beh, un punto di vista e osservazione interessante è Oscar, come te Oscar. Oscar, buongiorno, era lì un po' in attesa. Oscar, non c'è problema, ho sentito anche Salvini, non c'è problema. Che dice? Che dice? Da Hong Kong, è interessante il... Perché essendo piazza finanziaria, però io lavoro nell'industria, è una mia industria. Dicono gli inglesi che ci sono qua, però è una nuova generazione, non è quella vecchia che è ancora molto imperiale. Dicono che Cameron è il Mr. Bean della politica, perché non ne ha azzeccata una, ha difeso sì bene gli interessi della Gran Bretagna, ma per stare in Europa, però ha perso la partita definitiva, cioè doveva giocare in altra maniera. Comunque io personalmente ho scommesso sulla Brexit e ho vinto, quindi qui ci sono anche qui i bookmakers. Ah certo, ci sono, e come porco boia. qui diciamo che sanno che la Germania adesso mette il coltello tra i denti e farà di tutto per danneggiare l'Inghilterra, questo è poco ma sicuro. Quella classe politica tedesca che c'è adesso diventerà la piazza finanziaria d'Europa, questo è poco ma sicuro. Penso anch'io che questa ritorsione della finanza e dell'industria tedesca, ma anche della manifattura tedesca, sarà molto forte. Sono molto e io sono convinto che gli italiani, mentre gli europeisti italiani la seconderanno, io penso che sia completamente sbagliato, cioè io avrei preferito per la ragione opposta gli UK nel Regno Unito. Però vedremo cosa succederà, purtroppo. Allora, caro Oscar, nel concludere noi, ma non conclude, anzi non si conclude tutt'altro, la programmazione di Radio 24 tutta dedicata alla Brexit. Temo che ce ne parleremo a lungo, non basterà la giornata per seguire il russolone dei mercati. Ma sì, ma adesso proprio seguirà la programmazione con la redazione di Radio 24 ovviamente e tutte le conseguenze. Vuoi cantare Siamo al ritornello giusto per concludere come abbiamo iniziato? Non lo so. No, noi ci troviamo lunedì e Radio 24 continua a tenere i fari accesi sulla Gran Bretagna. Oggi pomeriggio domani dalle 10 alle 12 Conti della Belva. Non l'ho detto. Ti sei dimenticato persino di dire. È venerdì, signori, è venerdì. Va bene, dai. Ci ritroviamo lunedì. Va bene, sulle notti di Rule Britannia. Continuate con la 24. Aruba, soluzioni cloud per le imprese. Solo su www.cloud.it. Vi ha presentato 24 mattino.